trovan una cascaforte, han divinata panna fa che. Non tengo titoli, non vive rendita, non c'ho un vestito per quella a me. Ma la cascia mi necessita, per forza l'ha già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Un ritratto formato visita da Bonana e mezzi Sofia. Non ci ricapito, non ho cuore corallo. Ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23. La la la la la la la. Vaca truan, una cascaforte, ma qua cascere c'ho vaca di. Certe reliquie, certi cimeli, se tiene a foro non sparì. San Casimiro martire, sta cascia famma vanì. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una maneche sicchi, una crasto le specchi. Una corteccia di cacio vecchio, un fracche sciasso color cachì. Di di di di di di di di. Sono ricordi che in cascaforte solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del companatico in gotte zitte senza sfrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia me l'annarà. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambole micci, una lentina astuccia. È una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglio età. Na na na na na na na na. È una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglio età.